Radio Sveglia. Dieci e quarantuno in quest'ultima parte della Radio Sveglia. Parliamo di chi è arrivato da un altro paese e oggi vive in Italia. Iniziamo da quello che è successo domenica a Pessina Cremonese, in provincia di Cremona, appunto, l'inaugurazione del più grande tempio Sikh d'Europa, un luogo di culto finanziato dalle donazioni dei fedeli e che permetterà alla comunità Sikh lombarda di avere un posto dove pregare. L'inaugurazione, appunto, è stata domenica, ha visto la partecipazione di oltre 10.000 persone. A seguire per noi alla festa e l'inaugurazione c'era Eleonora Brianzoli che ci racconta la giornata in questo reportage. Anche festa grande. È davvero una grande festa per i Sikh. Domenica hanno inaugurato il nuovo Gurdwara, il Tempio Sikh, un grande edificio bianco a due piani in mezzo alla campagna di Cremona. Siamo a Pessina Cremonese, ma per trovare il tempio bisogna superare il paese, seguire la strada che porta a Torre dei Picenardi e svoltare nella zona industriale, dove finisce l'asfalto e sorge il tempio, circondato dai campi. Qui sono arrivati Sikh da tutto il nord Italia, ma anche decine di italiani curiosi di vedere la cerimonia di inaugurazione. Voi abitate qui? Sì, a Torre. Non hai mai visto così tanta gente qua? Mai. E mia sorella non da chiamarmi, ma no, andiamo a vedere, non facciamo niente del male, non le rispettiamo le sue idee, loro rispettano loro. Il piazzale davanti al tempio è ricoperto di petali di fiori che stanno già appassendo sotto il sole d'agosto. Pochi minuti prima erano la pioggia colorata che ha accompagnato il corteo per portare il Guru Granth Sahib Ji, il libro sacro dei Sikh, all'interno del Gurdwara, il tempio. Per entrare bisogna essere scalzi e sia gli uomini sia le donne devono avere il capo coperto. Sotto un tendone a sinistra dell'ingresso distribuiscono fazzoletti arancioni per i molti italiani che non hanno né un turbante né gli eleganti foulard delle donne Sikh. Dall'altro lato quattro uomini tirano le scarpe disposte in lunghissime file ordinate nel cortile del tempio. Ci sono file ordinate anche nel Pangat, la sala comune al pian terreno del tempio. Tutti sono seduti per terra. Davanti a ciascuno ci sono un piatto e un bicchiere di metallo, continuamente riempiti dagli uomini con il turbante che passano tra le file con cestini carichi di verdure fritte, dolci e frittelle. Questo che stai mangiando tu adesso cos'è? Sì, questo si chiama tikki, con la patate, un po' di cipolle, un po' di farina, uno di succo di zucchero, cucinare così, prepare. Intanto al primo piano del Gurdwara stanno cantando le preghiere per benedire il tempio. Il Darbar Sahib Ji, la sala principale del tempio, è grande come la palestra di una scuola. Sul pavimento c'è un tappeto interamente ricoperto da un telo di seta bianca. Dal soffitto al centro della stanza partono ghirlande di fiori che sovrastano le teste dei fedeli per terminare lungo le pareti. In fondo al Darbar Sahib Ji, un baldacchino decorato con altri fiori e un lampadario di cristallo ospita il Guru Granth Sahib Ji, il libro sacro che contiene i principi fondamentali del sikhismo, le parole dei fondatori di questa religione, ma anche gli insegnamenti dei profeti e dei santi di altre dottrine, tra cui l'induismo e l'islam. Guru Gobind Singh, l'ultimo dei padri della religione sikh, prima di morire disse che i sikh dovevano considerare il libro come il loro prossimo e definitivo guru. Le parole del libro sono come un insegnante, sikh vuol dire imparare, vuol dire. Alla fine tu devi seguire le regole di quel libro, che alla fine è come un signore che ti parla, come il signore che ti parla. Cioè i sikh portano in giro questo signore, che è il libro, alla fine è il libro, cioè si comporta come un signore. No? Cioè la mattina lo svegliano tipo come un signore così, no? Poi lo leggono così e poi anche la sera lo addormentano. Kumar Vipan ha 21 anni e conosce solo a grandi linee la sua religione. Io credo in Dio, spiega, ma ormai sono italianizzato. Da quanto tempo sei in Italia? Allora, ho 21 anni e sono in Italia da 20 anni, no? E non te la ricordi neanche l'India? Sono andato a dicembre a fare un tour, è molto bella e da scoprire perché è veramente un paese fantastico. Io sinceramente credo solo in Dio e poi per le preghiere sì, qualche volta vengo qua, ma veramente poco alla fine. Io non tengo il turbante, sono nato in Italia e alla fine sono quasi mi sono italianizzato, come si dice, e seguo le mode dei miei amici, i costumi italiani, mi diverto, non c'ho nessun problema. Quindi se trovassi una ragazza italiana che volesse fare il matrimonio cattolico, per te non c'è problema? Mia mamma sarebbe contenta. Non tutti i giovani Sikh decidono di abbandonare le proprie tradizioni. Karanjit Cohen, 15 anni, mostra con orgoglio i suoi 5 K, i simboli che fanno di lei una vera Sikh. Quando fai il battesimo sei veramente Sikh. Sono 5 cose che devi sempre portare con te, cioè tipo i capelli non li devi mai tagliare, poi devi portare il bracciale, il kala si chiama, poi devi portare un pettine nei capelli che si chiama kanga, poi devi portare la spada, il kirpan, e poi bisogna portare tipo non le mutande, ma sono a tipo dei pantaloncino che sono kashera, bisogna portare sempre quelli. Singhran Dir non cura più le mucche per lavoro come suo padre, ha seguito un corso per diventare agente assicurativo e spera di andare a lavorare in Spagna a settembre. Anche lui è orgoglioso della sua religione. Il pensiero, tutto quello che c'è, hanno parlato di tutte le cose, tipo parliamo di fumare, hanno detto adesso che fumare non fa bene. Sul libro da 300 anni fa c'è già scritto, c'era già scritto che fumare fa male, cioè prima che diceva la scienza c'era già scritto, nel libro c'era già scritto anche la scienza. Singhran Dir ricorda però che anche i giovani Sikh devono affrontare i problemi che incontrano tutte le seconde generazioni. Dicevi hai la ragazza italiana? Sì. Quando vi vorrete sposare, tu puoi accettare di fare sia il matrimonio cattolico sia il matrimonio Sikh? Io non mi faccio problemi, però dato che i miei genitori hanno la mentalità un po' vecchia, dovrò ascoltare anche loro e anche a lei. Poi scelgo, alla fine non posso mettere piedi in due navi, non riesco ad andare avanti. Un giorno dovrò scegliere per forza una persona, o scelgo i genitori o scelgo la ragazza. Nonostante questo, in mezzo alla festa per l'inaugurazione del tempio è impossibile non provare la sensazione di trovarsi in una bella favola di integrazione. Saranno le facce sorridenti di Angela, Lorenza, Antonio, che oggi sono qui per partecipare alla gioia dei loro vicini di casa. Io ho una vicina di casa mia là, brava gente, li vediamo poco, specialmente la ragazza che studia, la Pretti studia, brave persone, pulite, brave. Io sono camunese, ho tanti amici indiani, che posso dire veramente amici, ecco, che gente di parola, gente che lavora, gente che senza nessuna presunzione di niente. Sono persone che lavorano qui tranquillamente, e non ci sono mai stati difficoltà di nessun genere, sono persone molto pacifiche e molto disponibili.